Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Napolitano attacca sull'università, no ai tagli indiscriminati, si rivedano le scelte di bilancio. Le borse europee recuperano trainate dai titoli del credito, la Svizzera teme per la stretta sul segreto bancario. Al Cairo, il giorno dopo la bomba, in XL una testimonianza dell'attentato al Bazar, mentre i giornali egiziani minimizzano un incidente. Ho rotto il silenzio perché questo disegno di legge è una barbarie, lo dice Beppino Englaro a Radio 24 parlando del testamento biologico. Aperta la camera ardente per Candido Cannavò, il mondo dello sport celebra e ricorda l'ex direttore della Gazzetta. Benjamin Button raccoglie poco, trionf The Millionaire nella notte degli Oscar, miglior attore Sean Penn e miglior attrice la Winslet. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large che apriamo andando a Perugia. Andiamo a Perugia perché questa mattina il Presidente della Repubblica Napolitano, in visita all'Università della città, ha parlato dei tagli all'Università definendoli indiscriminati. Allora ci colleghiamo con Perugia, Daniele Morini. Sì, ha parlato di università e di ricerca, ma anche di crisi economica, dei problemi del bilancio statale. Questi temi toccati dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenuto stamattina alla cerimonia conclusiva per le celebrazioni del 700° anniversario della fondazione dell'Università degli Studi di Perugia. Mi auguro, ha detto il Capo dello Stato in un passaggio del suo discorso, che siano maturi i tempi per ripensare e rivedere scelte di bilancio improntate a tagli indiscriminati. Napolitano ha prima ascoltato la relazione del rettore Francesco Bistoni, che ha parlato di costi enormi per l'università italiana causati dalla fuga dei cervelli all'estero, ogni anno almeno 1,5 miliardi di euro. Napolitano ha aggiunto che invece bisogna coltivare il senso delle nostre radici e guardare con coraggio a quello che oggi è in Italia il mondo della ricerca e quello che dall'estero nel mondo ci si aspetta da noi. Infatti, ha aggiunto Napolitano, la ricerca e la formazione sono la leva fondamentale per la crescita dell'economia. Questa è una verità difficilmente contestabile. E questo è un tema cruciale data la situazione del paese che è di straordinaria difficoltà per via della crisi economica e finanziaria e dei pesi che l'Italia si porta da molto tempo. Tra questi, ha aggiunto Napolitano, l'ingente debito pubblico. Da Perugia per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Daniele Morini. Il Presidente della Repubblica ha parlato di crisi economica. Parliamone anche noi. Sì, ne parliamo anche noi perché la settimana scorsa, almeno per quanto riguarda la borsa, è stata una settimana durissima e il venerdì è stato particolarmente difficile con il panico che si era diffuso soprattutto per quanto riguarda il settore bancario. Ebbene, oggi sembra esserci un deciso recupero, in particolare proprio per quanto riguarda i titoli finanziari. Deborah Rosciani, innanzitutto la situazione e poi il perché di questa ripresa. Sì, buongiorno. Allora, in realtà rispetto ad un'apertura che era stata più spumeggiante per le borse europee che erano arrivate a guadagnare oltre 2 punti, adesso c'è già di nuovo un certo rallentamento. Parigi e Francoforte sono in rialzo di 1 punto, addirittura Londra più 0,2%, la miglior piazza d'Europa oggi è Piazza Affari, sta guadagnando l'1,64%. Come dicevate, dopo il venerdì nero oggi tornano a recuperare posizioni i titoli del settore bancario, in particolar modo a Piazza Affari svettano Unicredit più 7%, Intesa San Paolo più 4,78%. Diciamo che è stato accantonato al momento lo spettro della nazionalizzazione bancaria per quello che riguarda il nostro paese, che era stata ventilata dal premier Berlusconi proprio venerdì scorso, e il mercato bancario italiano probabilmente oggi trae un po' di giovamento anche da quanto ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi al Forex di Milano di sabato scorso. Draghi ha detto: il sistema bancario italiano è più solido del resto del panorama internazionale. Dopo il via libera europeo ai cosiddetti Tremonti Bond, Draghi ha invitato esplicitamente il mondo bancario italiano a farne uso. Se i fondi messi a disposizione dallo Stato sono di dimensione adeguata, se le condizioni che accompagnano gli interventi sono ragionevoli e concrete, non si esiti ad utilizzarli questi fondi. E un'ultima notizia dalla borsa: dopo il settore bancario in movimento il comparto assicurativo, sono sospese oggi dalle contrattazioni generali ed alleanza. Oggi i consigli di amministrazione delle 2 compagnie di assicurazione daranno il via libera alla fusione. È tutto. Grazie Deborah Rosciani. Altre notizie economiche, naturalmente i prossimi aggiornamenti di borsa alle 13.30. Altre notizie economiche arrivano dall'Istat. Sì, perché l'Istat oggi ha confermato il dato dell'inflazione per quanto riguarda il mese di gennaio, che è all'1,6%, un livello mai così basso da un anno e mezzo a questa parte. In calo in particolare il prezzo dei carburanti, in un mese è scesa dell'1,8% la benzina e del 5,6% il gasolio, nel giro di un anno il costo dei carburanti è diminuito del 18%, tutto questo anche grazie al calo del greggio, che però è sceso del 58% nell'ultimo anno. Ora veniamo ad alcune questioni della politica italiana. Innanzitutto il primo giorno da segretario del PD per Dario Franceschini dopo il giuramento sulla Costituzione fatto ieri nella sua città, Ferrara. Ora c'è da affrontare l'organizzazione del partito. Elisabetta Fiorito, quali dovranno essere le prime mosse di Franceschini? Dalle parole il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini deve oggi passare ai fatti. Franceschini è arrivato alle 9 nella sede del partito in Sant'Andrea delle Fratte, il 7 giugno si vota, ha detto: la partita che abbiamo davanti così come risultato riguardano non solo il PD ma il futuro del nostro paese. All'assemblea costituente il neo segretario PD sabato ha promesso di azzerare il vecchio coordinamento e revocare il governo ombra. Franceschini consulterà poi gli amministratori locali, i segretari regionali, le personalità del territorio e i volti nuovi. Poi probabilmente un incontro con il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ma è ancora forte l'eco delle sue parole sulla Costituzione contro il Premier Silvio Berlusconi, molte le critiche anche dai volti nuovi. Per Matteo Renzi, Presidente della Provincia di Firenze e candidato sindaco, è stato eletto un vice disastro per gestire la transizione. Per Paolo Bonaiuti, PDL, è il solito anti-berlusconismo, il sale grosso della sinistra. Infine per Pier Ferdinando Casini, il PD con Franceschini va a sinistra, ma l'accordo con Renzi su Firenze è possibile. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Tra l'altro, una delle questioni che la PD dovrà affrontare è cercare di conciliare al suo interno l'anima cattolica, per così dire l'anima laica, per quanto riguarda il disegno di legge sull'attestamento biologico che è in discussione al Senato. Sì, veniamo a parlare proprio di questo disegno di legge sul testamento biologico, un testo che nella formulazione attuale impedisce di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione forzata. Nel momento in cui anche Beppino Englaro, come tutti gli altri cittadini, si può trovare nella situazione di Eluana e non vengono riconosciute le libertà fondamentali, è chiaro che debba parlare. Così il padre di Eluana ha spiegato a Mattino 24 perché ha deciso di rompere il silenzio. Per Englaro il disegno di legge sul testamento biologico è una barbarie. Sentiamo perché. Perché impone condizioni di vita estranee al modo di concepire la mia esistenza. Io sto parlando solo per Beppino Englaro a questo punto. In che cosa impone una vita che a lei non va bene? Imponendomi l'alimentazione e l'idratazione forzata nella condizione personale non più capace di intendere e di volere. Dal momento che io, capace di intendere e di volere, posso rifiutare tutto. Una volta che non mi trovo più capace di intendere e di volere, devo subire questa imposizione coatta. Dobbiamo attenerci alla concretezza dei fatti. La concretezza dei fatti, viviamo in uno stato di diritto o in uno stato etico? Tutto lì. Questa è la concretezza dei fatti. E deve essere chiaro una volta per tutte. Quindi un messaggio, voglio dire, ai politici che stanno per discutere questi giorni la legge? Lei che messaggio darebbe? Messaggio, se si rendono conto, se hanno approfondito abbastanza questa cosa, sia dal punto di vista costituzionale, sia dal punto di vista della scientificità di quello che stanno mettendo a punto. Scientificità clinica, ben si intende. Tutto lì. Altro non ho da dire. L'approfondimento dovuto prima di legiferare come stanno legiferando. E questo era Beppino Englaro al microfono di Alessandro Milan. Mentre parliamo con l'elefante, la trasmissione di Giuliano Ferrara, è intervenuto il sottosegretario alla salute Eugenia Roccella. Sentiamola. Io credo che invece dietro le sentenze ci sia una linea interpretativa molto precisa dell'articolo 32 e non dico un disegno, perché no, non voglio parlare di disegno, non amo, però insomma certamente c'è una linea di interpretazione precisa che conduce da qualche parte. Basta vedere quali sono state queste sentenze, in che direzione vanno queste sentenze. Non voglio, devo dire, personalmente affidare la mia vita a un giudice. preferisco affidarla appunto alle relazioni o a una legge che metta dei paletti, delle garanzie, e che tra l'altro è verificabile attraverso mille contrappesi, cioè io posso fare un referendum, è votata da parlamentari che vengono votati. Sì, questo è vero, questo è vero. Il mentre procedimento democratico è quello. Giudice, creo un'infinita serie di casi che poi alla fine fa legge. È stata aperta questa mattina alle 11 la Camera Ardente per l'ex direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò, in via Solferino a Milano, la sede dell'RCS. Lì si trova il nostro Stefano Totoro. Stefano. Sì, buongiorno a voi ai nostri ascoltatori. C'è una foto che ritrae Candido Cannavò sorridente con uno sfondo rosa, lo sfondo del Giro d'Italia, lo sfondo della Gazzetta. La Camera Ardente è aperta da circa 2 ore qui in via Solferino, nella sala Indro Montanelli. In tanti sono venuti a rendere omaggio a Candido Cannavò, ad abbracciare la moglie Franca, di 3 figli. Sono arrivati il presidente di RCS Gaetano Marchetti, non è riuscito a trattenere le lacrime il presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, che è rimasto circa un quarto d'ora con i familiari di Cannavò e ha ricordato anche alcuni momenti del passato che ha condiviso con l'ex direttore della Gazzetta dello Sport. Tanti amici, tanti personaggi del mondo dello sport, alcuni momenti li ha ricordati anche Arrigo Sacchi, che appunto ha ricordato anche quando si erano scontrati su alcune cose, ma ha un ricordo molto molto bello. La Camera Ardente resterà aperta fino a domani, e adesso è un via vai anche di molti lettori appassionati della Gazzetta che ricordano Candido Cannavò. Per il momento è tutto. Grazie Stefano, e noi sentiamo il ricordo e il commento il nostro Dario Ceccarelli. Sapevo tutto dell'atletica, mi interessava l'atletica mondiale, e un giorno mi dissero: perché non scrivi un articolo, visto che sei così bravo, così insomma, in questa materia? E io scrissi il primo articolo e da lì è incominciato tutto. Ragazzacci era il suo modo di chiamarci noi giornalisti sportivi degli anni Ottanta, quando lui dal suo ponte di comando faceva diventare la Gazzetta il quotidiano italiano più diffuso. Anche se si stava in altri giornali, eravamo le sue truppe d'assalto, quelle che hanno fatto diventare lo sport non più un settore specialistico, ma un settore trainante dell'informazione, che anzi avrebbe presto condizionato nel linguaggio e nelle formule tutto il giornalismo italiano. Gli anni che vennero, il 83, 84, 85, furono anni strepitosi per la Gazzetta. Siamo arrivati a tirature pazzesche e il giornale nei primi 2 anni della mia direzione guadagnò 120.000 copie al giorno. Cannavò concluse questa rivoluzione intuendo una cosa, che ormai con la TV l'evento sportivo l'avevano già visto tutti. Nei giornali bisognava andare oltre, cercare il personaggio, il lato umano, la polemica sanguigna, che poi i suoi mediocri emuli fecero diventare processi e pettegolezzi. Ma lui era di un'altra pasta, perché amava scrivere e raccontare, soprattutto gli piacevano le storie, Maradona e Pelé, Pantani e Coppi. Sotto il talento cercava l'uomo, il pulsare delle passioni, mondiali di calcio, olimpiadi, Tour de France, Giri d'Italia. Gli piaceva esserci, scrivere fino a tardi in sala stampa. Candido, ma non ingenuo, amava gli aggettivi barocchi, ma li sapeva miscelare con mestiere. Ogni tanto gli scappava un fantastico, ma quando ci vuole, ci vuole, e non si stancava mai. Lo si è visto quando ha lasciato la direzione della Gazzetta. Sgravato dalle responsabilità, ha dato il meglio di sé. La lotta feroce contro il doping nel ciclismo, contro il malaffare nel calcio, gli hanno conferito una statura ancora superiore, come i suoi libri di forte impatto civile, sui disabili e su chi si è perso dietro le sbarre di un carcere. Trovi delle storie come quelle che ho raccontato, trovi storie che dimostrano che il carcere non è un letamaio, non è una pattumiera, e c'è un'umanità di cui va tenuto conto. L'ultimo suo libro, Pretacci, era un'affettuosa testimonianza su quegli uomini, sempre più rari, che portano il Vangelo sui marciapiedi. Di uomini così, si diceva una volta, si è perso il famoso stampino. Anche Cannavò era così. Noi ragazzacci, anche se il tempo stringe, quello stampino lo stiamo ancora cercando. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Per le università italiane è necessario rivedere i tagli che, sebbene dettati da motivi di bilancio, sono risultati indiscriminati. Le parole sono del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che chiede più risorse pubbliche per gli Atenei. In netto recupero le borse nella giornata di oggi, trainate dai titoli bancari. Milano, la migliore d'Europa, guadagna oltre l'1%. L'Istat conferma, a gennaio l'inflazione è scesa all'1,6% dal 2,2% di dicembre. In un mese i prezzi sono calati dello 0,1%. Al Cairo la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'attentato di ieri nel Souk, nel quale è morta una ragazza francese di 17 anni in gita scolastica. Restano in stato di fermo due donne e un uomo bloccati dopo l'esplosione. È The Millionaire, il film trionfatore nella notte degli Oscar. Ha conquistato 8 statuette, fra cui quella per il miglior film, miglior regia, miglior attore Sean Penn per Milk, miglior attrice Kate Winslet per The Reader. La linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione si farà, lo assicura Silvio Berlusconi in un'intervista alle Figaro. Domani il presidente francese Sarkozy sarà a Roma. A Milano la camera ardente per Candido Cannavò, morto ieri per un'emorragia cerebrale. Colleghi, amici e lettori stanno dando l'ultimo saluto al giornalista che per 19 anni è stato direttore della Gazzetta dello Sport. Sono stati fermati due giovani nomadi, di cui un minorenne, per l'omicidio di un 24enne a Catanzaro. Massimiliano Citriniti è stato accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale. The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson, producer. The Oscar goes to Kate Winslet. And the Oscar goes to Sean Penn. E stiamo naturalmente parlando degli Oscar che sono stati assegnati questa notte a Los Angeles. Ne parliamo con Marta Cagnola, di ritorno da Sanremo, ma già subito proiettata sugli Oscar. Due nottatacce di fila, Marta. Non ci fermiamo mai. Infatti ho deciso di chiedere o all'Academy di spostare la data degli Oscar o alla Rai di spostare la data di Sanremo per l'anno prossimo. Chissà chi mi accontenta. Ci stiamo lavorando. Marta, allora, chi sono stati i vincitori da un punto di vista così generale di questa edizione degli Oscar? Non c'è stato un vincitore, c'è stato un trionfatore, perché The Slumdog Millionaire, o The Millionaire come lo chiamiamo noi in Italia, ha vinto ben 8 statuette su 10 nomination, e diciamo delle statuette abbastanza pesanti, perché sono state miglior film, miglior regia, fotografia, montaggio, colonna sonora, canzone originale, sceneggiatura non originale, miglior missaggio del suono. Mancava solo lo stenditore di tappeti e il piantatore di chiodi e faceva il pieno. Esatto. Beh, per uno che ha vinto però c'è qualcuno che è rimasto fortemente deluso. Pesantemente, direi. Allora, il curioso caso di Benjamin Button è diventato il curioso caso del flop, perché aveva ben 13 nomination e ha portato a casa solo miglior scenografia, miglior trucco e migliori effetti speciali. Premi di risulta, insomma. Beh, insomma, no, sono premi comunque importanti, però 3 su 13 è un po' pochino. Ma a te personalmente The Millionaire è piaciuto? Un film che secondo te meritava l'Oscar? A me è piaciuto tanto, meritava l'Oscar. Sapete che in Italia ci sono delle polemiche però che riguardano questo film, che riguardano il doppiaggio, perché c'è una traduzione molto controversa, perché a un certo punto la frase "They are Muslims, get them", sono musulmani, prendeteli, diventa nella versione italiana "aiuto, sono musulmani, scappiamo". Questo errore crea proprio un problema di comprensione del film, perché fa erroneamente intendere che a uccidere la madre dei piccoli protagonisti sia stato un gruppo di integralisti musulmani e non di fanatici induisti. Insomma, un errore non da poco, e c'è un ricorso che pende sulla casa di distribuzione italiana per quanto riguarda questa frase. C'è da dire che tra l'altro in Italia è stato definito come commedia, e tutto si può dire The Millionaire tranne che sia una commedia, un film decisamente drammatico, certo con un bel finale, però un film drammatico. Sono le classiche pecche dei paesi nei quali si sceglie il doppiaggio invece della versione originale sottotitolata, un classico. Altri delusi, la coppia d'oro di Hollywood, Brangelina, bellissimi. Lei aveva uno stupendo abito nero e una parure di smeraldi, io credo fossero veri, ma veramente secondi solo al pugnale del Top Capi, bellissimi. Però niente, non hanno portato a casa nulla. Era candidata lei, era candidato lui, niente, tornano a casa senza statuette. Andiamo invece a chi sono i migliori. I think that it is a good time for those who voted for the ban against gay marriage to sit and reflect and anticipate their great shame and the shame. E questo che state sentendo è Sean Penn, che ha vinto, Marta, la statuetta come miglior attore protagonista. Lui ha vinto la statuetta come miglior attore protagonista per il film Milk, nel quale lui interpreta la storia di Harvey Milk, primo politico americano dichiaratamente omosessuale. E in questo speech, in questo discorso di ringraziamento per l'Oscar, si è scagliato contro tutti coloro che in America votano contro il matrimonio omosessuale. Si è scagliato con grande veemenza, perché ha detto "vergognatevi, la vergogna cada su di voi", e soprattutto diceva "uguali diritti per tutti". La miglior attrice Kate Winslet è stata molto più soft, perché si è limitata a dire "quando avevo 8 anni io sognavo questo momento e provavo la scena con una bottiglietta di shampoo in mano davanti allo specchio in bagno". Marta, i non protagonisti, uno straannunciato. Uno straannunciato e meritatissimo questo premio era quello a Heath Ledger, premio postumo purtroppo perché più di un anno fa Heath Ledger è morto all'età di 28 anni, hanno ritirato il premio il papà, la mamma e la sorella, giovanissimi, bellissimi, anche ovviamente molto emozionati. È stato un momento davvero toccante in questa cerimonia degli 81esimi Oscar. La miglior attrice non protagonista è europea, Penelope Cruz, per Vicky Cristina Barcelona, e ha detto che si sentiva svenire. Io ci credo, perché non deve essere un momento facilissimo. Put on my top hat, tying on my white tie, perfect brushing off my tails, Brad Pitt. Un giudizio, Marta, sulla cerimonia di quest'anno. Beh, intanto quello che state sentendo è l'Oscar al miglior attore secondo Marta, cioè Hugh Jackman, attore... Una nuova categoria. Sì, spero di consegnarglielo peraltro personalmente. È l'attore australiano, bravissimo, bellissimo, conduttore, mattatore, e in questo, in particolare in questo momento, che noi grezzi maschi ricordiamo come il Wolverine di X-Men, naturalmente, ma che forse è in Australia che voi lo ricordate con più passione. Sì, noi in Australia lo ricordiamo con passione. Tra l'altro, appunto, ha dimostrato, se non ce ne fossimo accorti, che è anche un bravissimo ballerino e cantante, perché lui ha un passato a Broadway ed è riuscito a fare da mattatore in questa serata che era molto rischiosa, perché sentite qua le cifre: la raccolta pubblicitaria più bassa degli ultimi anni, era calcolato che non si sarebbero superati 68 milioni di dollari, il 16% in meno del 2008. 30 secondi di pubblicità costavano tra gli 1,4 e gli 1,7 milioni di dollari, un anno fa ci volevano 2 milioni di dollari, quindi un gran risparmio. Chissà se come Sanremo hanno risparmiato tanto, hanno fatto il rilancio degli ascolti, magari anche gli Oscar, chissà. Staremo a vedere. Grazie a Marta Cagnola per averci spiegato e per averci portato in questa notte degli Oscar. Noi ora cambiamo decisamente argomento. Sì, cambiamo argomento e andiamo in Israele, dove si lavora ancora alla ricerca di un compromesso per il nuovo governo. Ci sarà un altro incontro tra Bibi Netanyahu e Tzipi Livni, il premier designato, leader del Likud e la leader del partito in maggioranza relativa Kadima. Quello di ieri sera non ha prodotto accordi, anche se era prevedibile, visto che la Livni ha più volte ribadito di non essere disposta a compromessi sul processo di pace. E oggi anche i laburisti hanno detto no a Netanyahu. Il paese vuole che i laburisti passino all'opposizione, là appunto andremo. Queste le parole che ha detto oggi il ministro israeliano alla difesa, Ehud Barak. Per il momento quindi Israele resta in una sorta di limbo politico, mentre sui fronti del nord e del sud si concentrano le minacce per la sicurezza. Al microfono di Cristina Balottelli l'ex colonnello israeliano Eitan Azani, studioso di Hezbollah, commenta così l'ultimo episodio di lanci di razzi dal Libano. Non è nell'interesse di Hezbollah adesso aprire un nuovo fronte nel nord. Il loro interesse è di arrivare preparati alle prossime elezioni in Libano, ampliando il loro potere e la loro influenza. Del resto avrebbero potuto aprire un nuovo fronte mentre Israele era impegnato nella guerra contro Hamas, ma non l'hanno fatto. Un'escalation farebbe perdere sostenitori a Hezbollah. Anche sui precedenti episodi di razzi dal Libano, il partito sciita aveva negato ogni coinvolgimento e forse sono stati altri gruppi di stampo jihadista, ma è pur vero che Hezbollah controlla ogni palmo del sud del Libano, quindi non può non sapere quanto accade sul territorio e chi è responsabile. Il sud del Libano è pieno di villaggi e tutti sanno cosa succede. Hezbollah è un'organizzazione che esercita un controllo capillare sulla comunità sciita dei villaggi del sud, quindi certamente sa. Le 13:32 minuti, GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Bisogna rivedere i tagli alle università che sono stati indiscriminati, sebbene dettati da motivi di bilancio. Le parole sono del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che chiede più risorse pubbliche per gli Atenei. Deciso recupero per le borse nella giornata di oggi. Milano, la migliore d'Europa, guadagna oltre l'1%. A trainare i rialzi sono i titoli bancari. L'Istat conferma a gennaio l'inflazione scesa all'1,6% dal 2,2 di dicembre. I prezzi dei carburanti sono calati del 18% in un anno. Al Cairo la polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'attentato di ieri nel souk, nel quale è morta una ragazza francese di 17 anni in gita scolastica. Restano in stato di fermo due donne e un uomo bloccati dopo l'esplosione. È The Millionaire, il film trionfatore nella notte degli Oscar, ha conquistato 8 statuette, fra cui quella per il miglior film e il miglior regia, miglior attore Sean Penn per Milk, miglior attrice Kate Winslet per The Reader. La ferrovia ad alta velocità Torino-Lione si farà, lo assicura Silvio Berlusconi in un'intervista alle Figaro. Domani il presidente francese Sarkozy sarà a Roma. A Milano la camera ardente per Candido Cannavò, morto ieri per un'emorragia cerebrale. Colleghi, amici e lettori stanno così dando il loro ultimo saluto al giornalista che per 19 anni è stato direttore della Gazzetta dello Sport. Un operaio romeno di 31 anni è stato travolto e ucciso ieri notte mentre camminava lungo il margine della provinciale che conduce a Capena, in provincia di Roma. Ad investirlo un italiano di 24 anni sotto effetto di droghe e alcol. Sono stati fermati due giovani nomadi, di cui un minorenne, per l'omicidio di un 24enne a Catanzaro. Massimiliano Citriniti è stato accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale. A parlare della crisi finanziaria, perché fra le decisioni prese ieri dai leader europei che si sono visti a Berlino c'è anche una stretta sui paradisi fiscali e sul segreto bancario. Un fatto che inquieta in particolare la Svizzera. Lino Terlizzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, che cosa succede a Berna? Succede che la Svizzera si sente chiaramente, ma è così oggettivamente, nel mirino. Da un lato l'avvertenza UBS Stati Uniti, gli Stati Uniti accusano l'UBS di aver favorito pratiche di evasione o di frode fiscale per i clienti americani, e dall'altro c'è questo pronunciamento dell'Unione Europea, la quale ha un accordo sulla tassazione del risparmio con la Svizzera che di fatto riconosce un certo segreto bancario svizzero, ma evidentemente la crisi finanziaria ora porta a rimettere in discussione, se non proprio quell'accordo, ma comunque in generale il segreto bancario, e dunque il sentimento è quello di un paese che si sente un po' assediato da questo punto di vista. E si aggiunge poi, infine, il fatto che la Svizzera aveva chiesto di poter essere presente al G20 come partecipante o quantomeno come osservatore, G20 del 2 aprile a Londra, ed invece sinora non è stata invitata, non lo sarà probabilmente, questo crea delusione e accentua sicuramente il senso di assedio, per così dire, nei confronti del segreto bancario elvetico. Ecco, Lino, ma ci sono ipotesi su come la Svizzera possa uscire da questo assedio? Ma l'ipotesi è soprattutto nei confronti dell'Unione Europea di una rinegoziazione, di questo si parla anche in Svizzera, di una rinegoziazione appunto dell'accordo sulla tassazione del risparmio e quindi di una nuova intesa che da un lato riconosca in parte il segreto bancario ma dall'altro accordi una maggiore apertura, una maggiore trasparenza almeno su alcuni aspetti, soprattutto fiscali. Questa è una via d'uscita possibile nei prossimi mesi o nei prossimi anni, bisognerà vedere i tempi, con l'Unione Europea. Con gli Stati Uniti la situazione è davvero più complicata, perché con gli Stati Uniti il dialogo è difficile, gli Stati Uniti sono fermamente intenzionati ad usare anche l'arma giudiziaria direttamente per far alzare il velo sul segreto bancario che riguarda i loro cittadini, e da questo punto di vista la Svizzera e l'UBS in quanto banca coinvolta sono sul terreno giudiziario, e a questo punto, dopo aver dato una prima lista di circa 300 nomi, a questo punto si fermano e vogliono combattere la partita sul piano giudiziario, ma l'esito è incerto. Grazie allora a Lino Terlizzi. Noi ora ci occupiamo della cosiddetta questione sicurezza in Italia. Simone. Sì, perché ci sono delle dichiarazioni del nostro ministro degli esteri, Franco Frattini, che oggi incontrerà a Roma il suo collega rumeno. Dice: non è l'Italia che deve rassicurare la Romania. Allora iniziamo sentendo le parole di Frattini. Noi accogliamo e continueremo ad accogliere quasi 1 milione di romeni che lavorano rispettando la legge, ma al tempo stesso saremo fermissimi nei confronti di coloro che non rispettano la legge. Dico solo che la Francia ha espulso solo nel 2008 oltre 7.000 cittadini romeni, l'Italia ne ha espulsi circa 40, quindi le rassicurazioni le debbono dare i romeni a noi, che non ci siano più criminali romeni nelle nostre strade. E allora cerchiamo di fare qualche calcolo sul rapporto fra criminalità e popolazione rumena in Italia. I cittadini romeni in Italia sono oltre 1 milione. Il boom di arrivi si è verificato dopo il 1 gennaio 2007, quando la Romania è entrata nell'Unione Europea, come sapete. Quelli detenuti nelle nostre carceri sono circa 2700, lo 0,27%. I romeni però sono primi tra gli stranieri nei reati più gravi. Il 15% degli immigrati accusati di omicidio è romeno, il 37% di chi ruba, primi anche per violenza sessuale, 16% sempre fra gli stranieri naturalmente, e rapine 26%, come rivelano i dati del Viminale. Ed è un triste primato che fino a qualche tempo fa apparteneva invece agli albanesi. Solo nel periodo 2000-2005 le denunce a carico dei romeni sono quasi triplicate. In Italia avvengono molti criminali perché non esiste certezza della pena. Queste sono dichiarazioni di Giancarlo Germani, presidente del Partito dei Romeni d'Italia. Sentitelo intervistato da Maria Luisa Pezzali. Questi dati si spiegano in maniera molto semplice. In Italia non esiste la certezza della pena, esistono delle pene edittali molto blande, esiste un sistema carcerario e giudiziario che dopo 2 giorni, 3 giorni al massimo si esce. In Romania tutto questo non succede, chi delinque, chi ruba una gallina sconta 5 anni, scontano anni e anni di galera senza alcuna prebenda. È chiaro che noi ci stiamo riempendo di tutta la schiuma d'Europa, perché poi i delinquenti si passano la parola, i delinquenti sono molto informati, hanno i satellitari, hanno la televisione, hanno internet, hanno tutto. Ormai si è sparsa la voce che in Italia puoi rubare, puoi fare quello che ti pare, non ti succede niente. Quindi questo è un problema di delinquenza criminale, non è un problema legato a un'etnia. È inutile che ce la prendiamo oggi con gli albanesi, domani con i rumeni e dopodomani con i nepalesi. È demagogia pura e non si risolve il problema, si disumanizza così la nostra società. Quindi il problema sono i delinquenti romeni che arrivano da noi? No, i delinquenti in generale, mi perdoni, perché i delinquenti romeni? Se andiamo a guardare i numeri, per esempio nella percentuale, allora ci sono altre etnie, io poi per non cadere nello stesso equivoco non le cito, però ripeto, è molto demagogico. Poi in un paese che è esportato nel mondo, camorra, 'ndrangheta e mafia, sentire tutta questa demagogia. Lei parla di romenofobia per i livelli che sta assumendo questa campagna anti-romeni. Perché i delinquenti sono liberi di delinquere, non è che a questa campagna delinquente gli fa un baffo. Il danno ce l'hanno le badanti, gli operai rumeni, le infermiere che iniziano a sentire la diffidenza, vengono guardati male, iniziano a perdere il lavoro. Se compriamo i giornali dove ci sono gli inserti per gli affitti delle case, astenersi se rumeni, io veramente vedo una deriva molto pericolosa. E ci spostiamo adesso dalla Romania, o meglio dai rapporti tra gli italiani e i romeni, in Gran Bretagna con la nostra Giulia Crivelli. Giulia, effetti della crisi diciamo imprevisti all'orizzonte? Sì, oggi sul Guardian è quel quotidiano, uno dei quotidiani britannici più autorevoli, ha sempre queste aperture un po' sganciate dalla cronaca ormai, o comunque scova delle notizie che magari agli altri quotidiani sfuggono. In questo caso è un rapporto delle forze dell'ordine, c'è un grande allarme nella Gran Bretagna e soprattutto a Londra e nei dintorni di Londra, una delle zone più colpite dalla crisi, sappiamo 1 milione di posti di lavoro bruciati in pochissimi mesi. Secondo le forze dell'ordine si potrebbero avere delle manifestazioni simili a quelle della grande crisi della Gran Bretagna negli anni 80, che ha poi favorito l'arrivo della Thatcher e di tutte le grandi riforme poi degli anni 80, e tra l'altro il meccanismo in quel caso era che queste manifestazioni erano certo ideate da un piccoli gruppi di persone che però reclutavano nelle schiere dei disoccupati, di chi aveva perso il lavoro temporaneamente, quindi era molto scontento e molto arrabbiato, persone disposte a dimostrare, a partecipare a queste manifestazioni non sempre pacifiche, erano sempre manifestazioni che poi sfociavano in qualche tipo di danneggiamenti alle proprietà pubbliche. Giulia, sempre a proposito di crisi che interessa naturalmente la Russia come tutti gli altri stati, pare che ora gli amici miliardari di Putin stiano chiedendo aiuti particolari. E anche Putin, e credo sia Putin che Medvedev, sono molto preoccupati per gli effetti proprio di disordini che potrebbero esserci. El País titola: la crisi castiga l'industria russa, il focus è sugli oligarchi russi che, diventati miliardari nel giro di pochissimi anni, in generale grazie all'energia ma anche alle speculazioni finanziarie, ora fanno tutti la fila, proprio come i moscoviti normali fanno la fila davanti alle banche per recuperare i loro risparmi, questi oligarchi fanno la fila davanti a Putin per cercare di avere degli aiuti in queste catastrofi finanziarie che hanno colpito i loro super imperi. Infatti i russi sono spariti anche dal quadrilatero della moda milanese, non comprano più come compravano prima. Giulia, da un colosso energetico come la Russia, torniamo in Inghilterra perché si riapre il dibattito sul nucleare anche là. È interessante questo, no? È successo anche qui da noi, no? Per esempio con Ripa di Meana, che era un ex verde, tuttora lui si dichiara verde, però ha avuto una svolta nuclearista. Lo stesso vale per i grandi ambientalisti britannici, un articolo dell'Independent, molti di loro cominciano a pensare che per rinunciare pensare davvero alla fonte principale di inquinamento di effetto serra, che sono le emissioni di CO2 e quindi grandi centrali che funzionano a petrolio, bisogna arrivare al nucleare. Questa è naturalmente quelle ironie un po' della storia, perché mai 20 anni fa un ecologista avrebbe potuto abbracciare le tesi dei nuclearisti, e dei nuclearisti invece adesso succede anche questo. Giulia, chiudiamo con il Washington Post, che naturalmente i quotidiani americani, soprattutto in questo momento in cui si parla dell'Afghanistan, sono attenti alle questioni del terrorismo. Il Washington Post ha questo approfondimento sulla storia di Abdallah al-Jimi, che era stato detenuto a Guantanamo, poi trasferito in Kuwait perché era di cittadinanza Kuwait, lì liberato e definitivamente scagionato, e poi si è fatto esplodere su un camion bomba in Iraq. Questo viene raccontato in modo molto neutro, non per colpevolizzare o per andare contro la scelta di chiudere Guantanamo, semplicemente per sottolineare che il problema dei terroristi continua a esistere, anche se magari bisognerà trovare un altro modo per, tra virgolette, rieducarli, diverso da Guantanamo. Grazie Giulia Crivelli, anche per oggi chiudiamo la pagina sulla carta stampata estera e passiamo alla stampa elettronica estera, andando sul sito del Mondo, perché ha appena diffuso una notizia riguardo al governo spagnolo, Alessandra. Sì, perché il ministro della giustizia socialista spagnolo, Mariano Bermejo, si è dimesso dall'incarico, lo riferisce appunto il sito del quotidiano El Mundo. Bermejo è stato negli ultimi giorni al centro di violente polemiche per aver partecipato ad una partita di caccia in Andalusia con il giudice Baltasar Garzón, che è titolare di varie inchieste, ma fra le altre quella di un'inchiesta su episodi di presunta corruzione in ambienti vicini al Partito Popolare, il principale movimento di opposizione al premier Zapatero. È lunedì, ecco il consiglio per la pausa pranzo del nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di Cuoco oggi vi porta a Milano, dove da pochi giorni, anzi da 2 giorni, è in funzione un locale storico siciliano, l'antica focacceria di San Francesco. Ebbene, questo storico locale ha aperto i battenti a Milano, in via Ponte Vetero, e qui, quindi a Milano, si possono mangiare pane cameusa, ovvero il pane con la milza, che può essere anche servito con ricotta di pecora o caciocavallo. Si possono mangiare panelle, si possono mangiare arancini, si possono mangiare cazzilli, insomma tutto quello che è la tradizione del cibo di strada siciliano. Allora ve lo ricordo, antica focacceria di San Francesco in via Ponte Vetero a Milano. Buon pranzo! GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Sebbene dettati da motivi di bilancio, bisogna rivedere i tagli alle università che sono stati indiscriminati. Le parole sono del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che chiede più risorse pubbliche per gli Atenei. Deciso recupero per le borse nella giornata di oggi. Milano la migliore e guadagna l'1% a trainare i rialzi sono i titoli bancari. L'Istat conferma, a gennaio l'inflazione è scesa all'1,6% dal 2,2% di dicembre. I prezzi dei carburanti sono calati del 18% in un anno. E The Millionaire, il film trionfatore della notte degli Oscar, ha conquistato 8 statuette, fra cui quella di miglior film e miglior regia, miglior attore Sean Penn per Milk, miglior attrice protagonista Kate Winslet per The Reader. A Milano la camera ardente per Candido Cannavò, morto ieri. Colleghi, amici e lettori stanno dando il loro ultimo saluto al giornalista che per 19 anni è stato direttore della Gazzetta dello Sport. Sono stati fermati 2 giovani nomadi, di cui un minorenne, per l'omicidio di un 24enne a Catanzaro. Massimiliano Citriniti è stato accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale. Secondo alcune testimonianze sembra che il ragazzo abbia usato una bomboletta spray per gli scherzi di carnevale contro alcune persone che hanno reagito uccidendolo. Andiamo al Cairo adesso, il giorno dopo l'attentato nel souk, nel quale, lo ricordiamo, è morta una ragazza francese di 17 anni in gita scolastica. Federica Zoia, in collegamento dal Cairo. Tu ieri eri nel luogo dell'esplosione. Che cosa è accaduto e che cosa hai visto? Si è sentita un'esplosione fortissima verso le 7:20. Io ero all'interno della moschea di Al-Azhar e il mercato di Khan el-Khalil, in cui è accaduta l'esplosione, sono separati da una strada a doppia corsia, quindi parliamo di una distanza di 60-70 metri, e sottolineo che la mia scelta di entrare in questa moschea è stata del tutto casuale, quindi uscendo dal sottopassaggio andare a destra o a sinistra al tempo di qualche minuto e sarei stata lì anch'io. Abbiamo deciso con degli amici di andare a entrare in moschea, era finita la preghiera, i fedeli uscivano, il tempo di fare un giro all'interno, si è sentita questa esplosione che ha squarciato davvero l'aria, e la gente immediatamente ha cominciato a dire che si trattava di un incidente di auto, cioè cercavano di rassicurarci, di rassicurare soprattutto gli stranieri, però è stato evidente che i guardiani della moschea cercavano di chiudere le porte, dicevano rimanete dentro, è più sicuro, quindi abbiamo capito subito che si trattava di qualcosa di molto più grave. Che ecco, ricordiamo Federica che il souk è molto frequentato sia da egiziani che anche dai turisti. Il souk è un posto da cui passa tutto il turismo internazionale, in cui vanno a bere un caffè i cittadini del Cairo nel fine settimana, è un polo di attrazione, ci siamo passati tutti quanti, chi vive qua, chi è venuto anche solo per 2 giorni al Cairo è passato dal mercato di Khan el-Khalili, perché è un posto tradizionale, quindi ovviamente colpire un luogo di quel genere la sera verso le 6:30, 7 vuol dire colpire gente che è lì tranquillamente, che non se l'aspetta, e colpirne tanta. Ecco, Federica, è insolito appunto un attentato nel centro del Cairo. Che cosa rappresenta, che cosa si vuole colpire con questo? Le ipotesi sono tante. Certo, non succedeva più una cosa del genere da 4 anni, e anche 4 anni fa era stato il frutto di, tra virgolette, schegge impazzite, cioè non ci sono rivendicazioni, non sembra un atto di un'organizzazione internazionale, sembra proprio in un periodo di grande difficoltà dopo la guerra di Gaza, di animi esacerbati, la scelta di estremisti di colpire i turisti e di lanciare un messaggio molto forte anche all'Egitto, che in questo momento è un intermediario di pace sia fra le fazioni palestinesi sia fra Hamas. Certo, e sta proprio facendo da mediatore l'Egitto. Grazie a Federica Zoia, collegata con noi dal Cairo. Ed ecco come i giornali arabi oggi in edicola hanno parlato dell'attentato. Ce ne parla Adib Fateh Ali. L'attentato nel più grande bazar turistico del Cairo domina le aperture della stampa araba di oggi. Ma mentre i principali giornali arabi parlano di terrorismo selvaggio che colpisce ancora, fa una certa impressione il taglio basso del più diffuso giornale egiziano che titola «Il Reis segue l'evoluzione dell'incidente e ordina di garantire le cure ai feriti». Anche se sono ancora da chiarire la dinamica dell'attentato, per Al-Quds Arabi il micidiale colpo contro il turismo potrebbe accelerare l'epurazione del ministro degli interni. Colpo al turismo, che rappresenta la più importante risorsa economica del paese, sarebbe la principale preoccupazione che induce le autorità a minimizzare quanto è accaduto, sostiene infine il quotidiano libanese As-Safir. Adib Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Le piste degli Urali possono diventare delle trappole di neve. La spedizione italiana oltre, diretta allo stretto di Bering, incappa in un paio di ribaltamenti, per fortuna senza conseguenze. Sentiamo il capo spedizione Peter Johansen al microfono di Gigi Donelli. Prima di tutto devi sapere che noi stiamo adesso andando nelle condizioni peggiori che tu puoi immaginare. Non c'è contrasto di luce. Tu cammini e guidi su un'enorme distesa bianca dove tu non vedi il contorno o il profilo della strada. Tu vai e speri che la strada o la pista o quello che ti è sotto è sufficientemente duro da tenere i veicoli in condizioni orizzontali. Dici un po' delle notti. Noi dormiamo nelle maggioline, dormiamo nelle nostre tende, abbiamo queste termocoperte che è sotto il sacco a pelo che quando tutto va bene raggiungiamo lo zero gradi. Devo dire, la difficoltà è entrare prima nel sacco a pelo dopo esserti svestito, e poi diventa un pochettino impegnativo quando ti alzi al mattino perché c'era la mattina e tu sei caldo, ti devi vestire, sono momenti drammatici per ognuno di noi, però ce la facciamo. A proposito, devo ringraziare i tuoi ascoltatori, perché specialmente Francesca che ci fa le domande bellissime, mi piacerebbe rispondere a tutti uno per uno, comunque attraverso il sito, attraverso la radio, mi raccomando, porgi a tutti il nostro caloroso saluto. Noi Radio 24 per noi è diventato un simbolo di collegamento con l'Italia. E allora vi ricordiamo che immagini, filmati e collegamenti in diretta con la spedizione oltre si possono trovare su radio24.it oppure su ilsole24ore.com. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchesi e con in regia Pietro Lacorte. Se volete riascoltarci, www.radio24.it. Se volete scriverci, extralarge@radio24.it. Prossima edizione del giornale radio alle 15. Noi ci risentiamo domani alle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.